Lettera inviata a Roma dalla città imperiale di Augusta, indirizzata a Gianpietro Carafa, datata 22 giugno 1526. Al munificentissimo e onorandissimo signore Giovanni Pietro Carafa, in Roma. L'illustrissima eccellenza vostra ha voluto onorare di un complimento immeritato e di una grazia troppo grande chi aspira semplicemente e umilmente a servire Dio per vostra mercede. Ma per non voler mancare agli ordini di vostra signoria e abbandonandomi del tutto alla vostra saggezza, non appena ho ricevuto l'ultima missiva, ho intrapreso la strada di questo grande borgo imperiale per adempiere alla consegna del mio signore. A proposito di quest'ultima, tengo a informare della liberalità con cui il giovane Fugger mi ha accolto in ordine alla vostra raccomandazione. Egli è un uomo devoto e accorto, del saggio zio, ha tutta la prudenza e l'abilità calcolatoria, unite al coraggio e all'intraprendenza che la giovane età gli concede. La scomparsa del vecchio Jacob Fugger, ormai 2 anni or sono, non ha nuociuto alle attività e agli sconfinati interessi della più ricca e influente famiglia d'Europa. Lo zelo con cui il nipote cura gli affari che furono dello zio è secondo soltanto alla sua cristianissima devozione e fedeltà alla Santa Sede. Salta agli occhi la semplicità e astinenza sincera in un giovane uomo quale Anton Fugger, quando la si paragoni alla vastità del suo credito in oro presso tutte le corti d'Europa. Riguardo alla ripresa della guerra e alla nuova alleanza condotta dalla Santa Sede con la Francia, egli, foraggiatore dell'imperatore, si è dato pena, sperando forse in una mia intercessione presso la Signoria vostra, di ribadire la sua neutralità. La stessa neutralità, mi sia consentito aggiungere, che può emanare soltanto l'oro zecchino. L'impressione mia è che poco importi a questo pio banchiere chi contragga credito presso i suoi forzieri, sia esso imperiale o francese, cattolico, luterano, cristiano o musulmano. Essenziali sono per lui il quanto e in quale forma. Che questa guerra venga vinta dagli uni o dagli altri, ai suoi occhi non fa grande differenza. Ma a ben vedere, la condizione ideale per questo giovane finanziatore non è altra che quella di stallo, ovvero di una guerra perenne che non veda mai vincitori né vinti e tenga legati ai cordoni della sua borsa le teste coronate di tutto il mondo. Ma non per dare giudizi sui banchieri sono stato inviato ad Augusta. Rispetto dunque al credito che la signoria vostra ha voluto aprire a mio nome, Fugger si è detto onorato di poter contare tra i suoi clienti una persona che tiene in tanta stima e che si duole di non poter incontrare direttamente quale vostra signoria. Egli ha ritenuto necessario fornirmi d'un simbolo che consenta ai suoi legati di riconoscermi in ogni città dell'impero e a me di riscuotere presso tutte le sue filiali, garantendomi così la più vasta libertà di movimento. Per ragioni che posso facilmente intuire, non ha voluto mettermi a parte dell'entità del credito aperto, lasciando appena intuire che si tratti di un conto illimitato. Dal canto mio, Dio non voglia che io manchi di rispetto alla signoria vostra, non ho voluto giusto chiedere altro. Detto ciò, mi premuro finora di informare la signoria vostra che cercherò di amministrare il privilegio che ha voluto concedermi con parsimonia e saggezza, per quanto sarà nelle mie facoltà, comunicando preventivamente al mio signore ogni utilizzo delle somme messe a mia disposizione. Non mi resta che ringraziare ancora la signoria vostra per l'infinita munificenza e raccomandarmi alla sua grazia in attesa di nuove. Che Dio misericordioso voglia concedere salute al mio signore e il suo sguardo magnanimo non abbandoni questo indegno servo della sua santa chiesa. Di Augusta, il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 1526. Il fedele osservatore di vostra signoria.